Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, noi ripartiamo dal caso ST ThyssenKrupp. L'Italia infatti chiede all'UE di monitorare molto attentamente la conformità del piano presentato dalla ThyssenKrupp con le promesse fatte nel caso AST e l'istituzione di una task force per quello che è oltre ogni dubbio un caso di significativo ridimensionamento, così quanto è scritto da Sandro Gozi alla commissaria Elisabetta Biankowska nella lettera scritta ieri dopo aver ricordato che il piano della ThyssenKrupp prevede il taglio di circa 550 posti di lavoro e 100 milioni di euro di costi, così come la chiusura di uno dei due forni per la laminatura a caldo. Gozzi afferma che l'attuale situazione dell'impianto colpisce direttamente la vita di centinaia di famiglie, con forti conseguenze negative sul territorio. Ecco, in questo contesto il governo chiede dunque l'intervento della Commissione per monitorare la conformità del piano industriale presentato da ThyssenKrupp. E ancora l'Ucraina. La NATO parla di rischio per i voli nei cieli europei. I caccia di Putin mettono a rischio soprattutto il traffico aereo civile. Lo afferma in un'intervista alla Bild il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg. I caccia russi volano senza codici transponder e comunicano con la sicurezza aerea. Gli aerei della NATO hanno già intercettato quest'anno oltre 100 velivoli russi, più di tre volte quelli del 2013. E ora la maratona per l'intesa del bilancio UE 2015, si profila di fatto una maratona negoziale sulle modifiche a quello rispetto a quello del 2014, maratona che punta di fatto a chiudere il buco delle fatture non pagate ed evitare che restino a secco programmi come l'Erasmus e molti altri. Il servizio potrebbe trasformarsi in una maratona negoziale di ben 4 giorni il vertice Ecofin sul bilancio che si è aperto stamattina a Bruxelles. Obiettivo trovare un accordo sul budget comunitario 2015 e sulle modifiche a quello dell'anno in corso. Il tutto entro lunedì a mezzanotte per evitare che interi capitoli di spesa restino a secco. Come spesso accade, i 28 governi e l'Europarlamento partono da posizioni distanti. Sulla bilancio 2015 il Consiglio ha chiesto 2 miliardi di tagli contro l'obiettivo di un incremento di 4, cui puntano invece gli eurodeputati. Manca pure una posizione comune sulle modifiche al budget di quest'anno. Il tutto mentre l'Europarlamento ha messo in chiaro che non intende discutere il budget 2015 se prima non si trova un'intesa su quello 2014, chiudendo il buco degli arretrati per i pagamenti più urgenti, sfruttando la clausola di flessibilità. A dirigere i lavori la presidenza di turno italiana, cui spetta il compito più difficile. A rischio ci sono infatti le fatture di programmi come l'Erasmus, che riguardano da vicino studenti, imprese e ricercatori. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E infine parliamo di difesa europea. Il generale Mikhail Kostakaros, 58 anni, capo di Stato Maggiore delle Forze Armate greche, è stato designato oggi dai capi della difesa dei 28 paesi UE come nuovo presidente dell'EUMUC, di fatto la centrale di coordinamento della difesa in Europa. La designazione è stata decisa nel vertice appunto dell'organizzazione che si è appena conclusa a Bruxelles e dovrà essere ora ratificata dal Consiglio dell'Unione Europea. E con questo è tutto per Europa 24, che chiude così anche la settimana. Stasera l'anticipazione sul reportage che domani sarà dedicato all'innovazione e alla cultura, come sempre in onda alle 7:15. Un saluto. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.